Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ancora una puntata dedicata agli scrittori esordienti, come spesso facciamo nel cacciatore di libri. L'esordiente di oggi si chiama Beatrice Valsecchi, monzese, classe 1974. La sua opera prima si intitola Un sogno di torta fritta e marzapane ed è pubblicata da Sperling e Kupfer. Il romanzo è costruito a capitoli alternati, una parte ambientata ai giorni nostri a Milano e un'altra nel 1982 a Sfranto, paese immaginario dell'Appennino emiliano. Protagonista in entrambi i casi è Ilaria, che l'autrice descrive così. Ilaria è una ragazza che, come molte, ha un lavoro che le piace così così, anzi più meno che più, e un sogno grandissimo che vuole realizzare. E quindi, in occasione di un evento particolare che non voglio svelare subito, decide che è giunta l'ora di provare a inseguire il suo sogno e così intraprende un'avventura che dura il corso di un'estate e quella del libro. Ilaria è una ragazza un po' sfortunata dal punto di vista sentimentale e lavorativo. Sì, ebbene sì, è una ragazza che ha tante possibilità che però non sono ancora, sono rimaste tutte in potenza e non si sono ancora realizzate, però nel corso del libro realizzerà sia le une che le altre, quindi possiamo dire che in fin dei conti non è poi così sfortunata come potrebbe sembrare. Capita spesso ultimamente che le protagoniste femminili dei romanzi siano un po' sfortunate in amore, insomma succedono una serie di disavventure, questo è un po' il filone della chick lit, lo ricordiamo sempre alla letteratura per pollastrelle, Bridget Jones in poi. Nel tuo caso invece non si tratta di una chick lit. Non proprio, no, devo dire che ha dei tratti in comune, ad esempio appunto questa l'età della protagonista, la sua voglia di affermarsi nel campo lavorativo, il suo desiderio poi in realtà mai espresso ma evidente di trovare anche una via amorosa che le renda felice. Questo però diciamo che è solo una metà del libro, è solo una parte del libro. L'altra metà dà anche un significato un po' diverso a questa parte più così diciamo frivola, contemporanea ed emotivamente un po' ciclite effettivamente. Allora spieghiamo questa dualità del libro, perché il libro è costruito per capitoli alternati, uno è ambientato nei giorni nostri e l'altro invece nel passato, negli anni 80, per la precisione il 1982, che non è scelto a caso. No, non è scelto a caso perché diciamo che l'avventura che si svolge nel 1982 nasce dalla vittoria dell'Italia ai mondiali, quindi c'è la storia di un uomo che fa una scommessa, diciamo un voto per così dire, sulla vittoria dei mondiali, l'Italia vince i mondiali, da lì in poi parte questa avventura, lui deve costruire qualcosa e quindi da lì parte la sua storia. Questa storia che poi sarà la fonte di ispirazione da cui Ilaria, la protagonista, 20 tot anni dopo metterà in pratica, insomma, da quest'idea anche lei trarrà il suo spunto. Ecco, noi parliamo in modo un po' così perché non possiamo svelare troppo del romanzo. Sì, non so mai quanto parlare, quanto non parlare, mi affido a te. No, diciamo che la protagonista è sempre Ilaria, sia nell'82 che ai giorni nostri, e che naturalmente intorno ad Ilaria girano una serie di personaggi. Per quanto riguarda la parte ambientata nell'82, è ambientata in un paesino dell'Emilia-Romagna, Sfranto, dove effettivamente ci sono tutta una serie di personaggi tipici della provincia italiana. Per questo tu ti sei ispirata a persone che hai conosciuto realmente? Abbastanza, anche se ovviamente l'ho fatto, come si suol dire oggi, il mix and match, cioè ho trovato un po' di caratteri, un po' di persone, li ho mischiati e sono venuti fuori personaggi che credo siano abbastanza veri, pur non corrispondendo poi a biografie reali. Appunto c'è questa, diciamo, questo clan familiare di questo paesino dell'estate, dove la protagonista d'estate passa le sue vacanze mentre d'inverno le passa in città, quindi di fatto ha anche lei una doppia visione del mondo, cioè quella di quando lei è a casa sua in città e di quando lei invece va in questo paesino un po' dove tutto è chiuso in una bolla e dove appunto le azioni che succedono sono un po' alla portata di bocca di tutti, si è sotto gli occhi di tutti, si fa tutto insieme, quindi già questo è un aspetto che ho voluto ricordare nel mio libro. La protagonista Ilaria lascia il lavoro che fa, lavoro tra l'altro sottopagato, insomma non è quello adatto al suo titolo di studio, per appunto inseguire un sogno. In questo c'è un po' un pizzico di autobiografia. È un pochettino sì, perché io anch'io devo dire che arrivata ai 30 anni, pur non avendo avuto un esempio così mirabile come quello di Ilaria, ho deciso che se volevo provarci era arrivata la data limite entro cui farlo e quindi ho mollato il mio lavoro e mi sono iscritta a un corso per sceneggiatori della RAI, quindi anzi ho fatto le selezioni perché non bastava iscriversi, però passate quelle e poi ho provato a seguire questa strada. E tu oggi fai la sceneggiatrice? Sì, anche oltre a scrivere romanzi, che sono il primo, ma faccio anche la sceneggiatrice, sempre sull'umoristico per ora. Adesso poi mi piacerebbe cimentarmi anche su qualcosa di più serio, impegnativo. Ecco, ci sono tantissimi giovani in Italia che vorrebbero scrivere un romanzo e si domandano, beh, ma come si arriva alla pubblicazione? Nel tuo caso come ci sei arrivata? Nel mio caso diciamo che è passato un po' da manuale, nel senso che finito il libro mi sono rivolta a un'agente letteraria e lei l'ha visionato, l'ha apprezzato e me l'ha venduto lei, quindi è stata una cosa proprio secondo i canoni. Quanto tempo è passato dal momento in cui l'hai presentato all'agente al momento in cui la casa editrice ti ha contattata? Ma sono stati pochi mesi, 2 o 3 mesi, ma è stato un caso molto fortunato, mi rendo conto, per cui è stata una cosa così, si vede che era sul momento, poi so che non può essere sempre così, che non sarà sempre così, neanche per me. Adesso tornando così un attimo alla trama, in questo libro ci sono molto gli anni Ottanta, con i ricordi, le immagini, per esempio viene citato spesso il telefilm delle Charlie's Angels, ma anche con le canzoni. È un po' il passato dei 30-40 anni di oggi, che va molto di moda. Eh sì, esatto, è il nostro passato, è il mio passato, e devo dire che è stato... Io ho iniziato a scrivere il libro quando questa moda era forse non era così esplosa, era un po' ai suoi fervori iniziali. E poi c'è la voglia di ricordare i propri momenti belli, e quindi la musica ti ricordi che era proprio quella, cioè io pensando agli 82 cosa facevo, le canzoni mi aiutavano a ricordare un sacco di cose in più. Sono andata a cercarmi le canzoni che erano dell'estate dell'82 e poi dicevo, ah sì certo, mentre ascoltavo quella canzone facevo questo e quell'altro, quindi di fatto la musica da sola mi portava verso la trama. Infine, 2 parole sul titolo. Perché questo titolo, Un sogno di torta fritta e marzapane? Innanzitutto questo titolo mette insieme le 2 parti del libro, cioè la torta fritta, che è la cosa che si mangia sulle colline dell'Appennino Emiliano, e il marzapane, che invece è la sostanza di cui è fatto il sogno di Ilaria quando poi lo va a realizzare, quindi il sogno è l'elemento che collega queste 2 parti. E abbiamo scelto insieme con l'editore un titolo così, diciamo, un po' saporoso, perché il libro è molto sul tema del, cioè diciamo che si mangia molto in questo libro, mettiamola così, fa venire fame. È un libro godurioso. Anche sì, spero. Poi io ho goduto molto scrivendolo, spero che qualcuno leggendolo faccia altrettanto. E questa era Beatrice Valsecchi, autrice di Un sogno di torta fritta e marzapane, pubblicato da Sperling e Kupfer. E veniamo ora all'iniziativa di Radio 24, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, che quest'anno sarà, come sempre, al Lingotto, dal 13 al 17 maggio. Tema della 23esima edizione, la memoria. E allora vi stiamo chiedendo, qual è il primo libro di cui avete memoria? Qual è il primo libro della vostra vita? Insomma, quello che vi ha emozionato di più. Scrivete una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana durante la trasmissione sceglieremo 2 mail e chi le ha scritte si aggiudicherà 2 biglietti per il salone. Questa settimana abbiamo scelto la mail che ci è stata inviata da Roberto Milanese, che ci scrive: lo avevo rimosso, ma solo in superficie, e ripensandolo dietro il suggerimento di questa iniziativa, ne ho risentito come allora, circa 40 anni fa, le emozioni, i sentimenti e addirittura i sapori, lo stucco delle finestre. E i ragazzi della Via Pal. C'era mistero, eroismo, avventura, tradimento. Era una storia di ragazzi modesti, come eravamo noi. Roberto Milanese dunque si aggiudica con questa mail 2 biglietti per entrare appunto al Salone del Libro di Torino. Ed è da Torino che arriva la nostra seconda mail, scritta da Anna Parvopassu, che ci scrive: sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi, il primo libro che ricordo di aver divorato provando piacere, senza quell'obbligo morale, un po' di matrice scolastica, un po' genitoriale, che prima si era sempre accompagnato all'attività della lettura. Ero nel pieno dell'adolescenza, gli anni degli ideali e della crescita, in attesa di nuove promesse e speranze. Ed ecco quella forza incantatrice, quella scrittura ipnotizzante, quelle parole così amabili, dense di immagini e odori vigorosi, quasi ossessionanti. Una spremuta di limone nell'assolata estate portoghese, incastonata per sempre nell'archivio della memoria. Così ci scrive Anna, che appunto si aggiudica due biglietti per il Salone del Libro di Torino con il libro Sostiene Pereira, scelta assolutamente condivisibile. E vi ricordo che al Salone del Libro ci saranno gli studi di Radio 24 al Padiglione 2, da dove trasmetteremo una serie di trasmissioni. L'elenco completo lo trovate su www.radio24.it. Naturalmente vi aspettiamo. Come sempre, se volete riascoltare questa o le altre puntate del Cacciatore dei Libri, le trovate sul nostro sito, sia in versione podcast che in versione MP3. Un saluto da Alessandra Tedesco.